as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e le Rose, Radio Città Fujiko 103.1 in FM, la trasmissione degli operai metalmeccanici e di tutti i lavoratori di Bologna e speriamo di tutto il mondo. Oggi abbiamo toccato di nuovo un argomento di cui ne abbiamo già parlato in puntate precedenti. Parliamo della campagna per una nuova scala mobile dei salari che è stata organizzata dall'area di alternativa in CGL, giornate di marzo. Abbiamo intervistato il suo coordinatore, che è Mario Riavazzi, che è un funzionario della sanità pubblica della CGL, del direttivo nazionale della CGL, e ci spiegherà insomma di cosa si tratta di questa campagna che abbiamo come Pane e Rose appoggiato, abbiamo aderito, perché come lavoratori chiaramente non siamo defessi davanti a una proposta di nuova scala mobile. Noi che comunque viviamo del nostro lavoro e andiamo a fare la spesa e tutti i giorni dobbiamo sfamare i nostri figli, chiaramente è una cosa molto molto interessante che appoggiamo in maniera incondizionata. Ora ascoltiamo un pezzo musicale bellissimo di un gruppo che io amo tantissimo, i Cult. La canzone più bella dal mio punto di vista, Revolution, poi ascoltiamo Mario Riavazzi e ci sentiamo per le conclusioni dopo. Cushion in the wind. Ciao Mario, siamo qui con te perché tu ci parli della campagna Giornate di Marzo, aree alternative in CGIL, una delle tre aree alla sinistra di Landini in CGIL, ha lanciato nel mese di maggio una campagna per la reintroduzione della scala mobile. Innanzitutto ti chiediamo di spiegarci la piattaforma, la vostra proposta, la nostra proposta, visto che anch'io vado in vita a questa campagna. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Dunque, in Italia abbiamo una questione salariale ormai che va avanti da decenni. Ci sono delle ricerche ufficiali che dicono che i salari in Italia sono gli unici nei paesi OCSE che sono calati negli ultimi 30 anni, precisamente un calo del 2,9%. Negli ultimi mesi l'inflazione galoppa, nei dati di marzo e di aprile ci indicano appunto un aumento dell'inflazione su base annua del 6-7% e penso di poter dire appunto che è un dato che in realtà sottostima la crescita dei prezzi in alcuni settori di largo consumo. Penso appunto all'aumento dei beni alimentari che va ben oltre il 10%, il dato dell'aumento del prezzo della pasta per esempio del 13%, piuttosto che l'aumento dei carburanti che per il momento è contenuto dall'intervento del governo che però appunto fa riferimento a un periodo che dovrebbe concludersi entro il 30 giugno del 2022. Dicono che la causa sia la guerra. Obiettivamente la guerra ha aggravato questo fenomeno, però un fenomeno che era iniziato già dall'anno scorso. Ci ricordiamo tutti l'aumento delle bollette del 2021, anche del 50-60%. La stessa Istat all'inizio dell'anno stimava un aumento dell'inflazione per quest'anno del 4,8%. Ovviamente, diciamo, oggi parliamo di percentuali ben più alte. Ora, qual è la risposta a questo problema? Noi pensiamo che sia necessaria una nuova scala mobile, e cioè un meccanismo automatico per legge che adegui i salari alla crescita del costo della vita. Un strumento che peraltro abbiamo già visto dalla metà degli anni 70 in poi, dopo appunto le lotte dell'autunno caldo e dei primi anni 70, e che hanno permesso in quella fase storica ai salari di crescere automaticamente con l'aumento dell'inflazione. Qualcuno ci potrebbe dire che questo genererebbe una crescita a sua volta dei prezzi, nulla di più falso, in primo luogo perché non si capisce perché i salari fanno crescere i prezzi e non li fanno crescere invece i profitti, no? I profitti che in questi anni sono sempre cresciuti, in particolare in alcuni settori. In realtà, appunto, questa è una risposta necessaria perché l'inflazione di fatto ricade appunto sulle condizioni di vita delle lavoratrici, dei lavoratori, delle loro famiglie. Ovviamente una nuova scala mobile non è di suo, diciamo, l'unica conquista che permetterebbe ai lavoratori di far fronte all'aumento del costo della vita. E quindi pensiamo appunto che ad una nuova scala mobile dovrebbe unirsi, diciamo, una serie di rivendicazioni e quindi appunto una piattaforma che vada nella direzione appunto di difendere i lavoratori dal costo della vita. Quindi appunto la necessità di calmierare i prezzi di bollette, affitti e di beni di prima necessità, un nuovo blocco di licenziamenti per difendere la continuità produttiva e i posti di lavoro, aumenti salariali e quindi diciamo rinnovi dei contratti nazionali che permetterebbero diciamo una vera crescita delle retribuzioni e una messa in discussione appunto della multinazionali di aziende del settore energetico che appunto in un contesto del genere stanno facendo enormi profitti. Penso all'Eni che nel 2021 ha aumentato i propri profitti di 4,7 miliardi, l'Enel di 3,2 miliardi, la stessa Stellantis per quanto riguarda l'automotive che ha visto e che ha dato la possibilità ai propri azionisti di distribuirsi 3,3 miliardi di dividendi. Ti chiediamo, visto che si avvicina il congresso della CGIL, vogliamo capire come lavoratori metalmeccanici iscritti alla FIOM, parteciperemo a questo congresso, vogliamo capire se riusciremo a mettere l'argomento della scala mobile al centro del congresso, perché penso che sia fondamentale e importante, visto l'occasione ghiotta che abbiamo davanti. Sì, oggi 31 maggio ci sarà il direttivo nazionale che presumibilmente dovrebbe approvare il documento che emerge dalla discussione della commissione politica che si è tenuta in queste settimane. Io per l'aria giornate di marzo e altre compagne e compagni abbiamo dichiarato la volontà di presentare un documento alternativo, cosa che faremo entro il direttivo nazionale che si terrà il 20 di giugno, dopo il quale appunto partirà il congresso con le assemblee di base e i livelli successivi. Noi pensiamo che si debba dare una risposta radicalmente alternativa alla linea che ha prodotto, o forse che non ha prodotto a sufficienza in maniera adeguata, il gruppo dirigente della CGIL in questi anni. Penso al tema della precarietà, alla risposta che non c'è stata allo smantellamento dei servizi pubblici, per esempio penso ai tagli alla sanità, nonostante diciamo quello che abbiamo visto durante la pandemia. Penso al tema appunto della scuola pubblica. A proposito, ieri c'è stato uno sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, che ha dimostrato anche diciamo la disponibilità ad opporsi alle politiche del governo e in generale diciamo delle istituzioni. Penso al tema delle pensioni, ma ce ne sono diversi altri che potrei citare. Però ce ne sono due di temi fondamentali che discutono le lavoratrici, i lavoratori, ma anche diciamo i disoccupati, i precari, i pensionati in questo periodo: il tema della guerra e il tema appunto del caro vita, e cioè la difficoltà o a volte persino l'impossibilità da parte delle persone comuni, quindi non dei ricchi che invece diciamo questa possibilità altro che ce l'hanno e come, di far fronte diciamo alle spese quotidiane e appunto diciamo ai consumi di prima necessità. Penso assolutamente che il tema diciamo della risposta alla questione salariale, e quindi della necessità di imporre nel dibattito, anche partendo appunto da una mobilitazione dal basso che stiamo provando a mettere in atto con questo appello, debba diciamo attraversare il documento alternativo, perché appunto durante il congresso le lavoratrici e lavoratori possano vedere diciamo che c'è all'interno della CGIL chi fornisce appunto una risposta più radicale e una risposta concreta, perché ci sembra appunto che sia l'unica risposta possibile alla necessità di rispondere alla questione dell'inflazione e appunto all'aumento del costo della vita. Mario, abbiamo intervistato un compagno dell'SGB, un funzionario, anche lui della sanità come te, il quale ha detto che lui era favorevole alla campagna sulla scala mobile, lo conosci sicuramente. Michele Cirinesi. Ora, lui però ha sollevato una questione importante, dicendo che una campagna come quella della scala mobile, oltre al piano sindacale, ha bisogno anche di una sponda politica molto grande. Effettivamente non ha tutti i torti, visto che comunque sia la scala mobile certamente è una richiesta che fa il sindacato, ma chiaramente poi lì ci vuole il governo, il Parlamento che promuova la legge per poter attuarla. Abbiamo una sponda politica, cosa pensiamo di fare per creare questa sponda politica e per incidere anche sull'aspetto politico del nostro paese per poter portare a casa questo risultato? Sì, certo, sono d'accordo con Cirinesi. Del resto, come provo a spiegare prima, la rivendicazione di una nuova scala mobile deve necessariamente inserirsi in un programma generale di difesa delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. D'altronde la rivendicazione di calmierare i prezzi delle bollette, degli affitti, piuttosto che quella di tornare ad un nuovo blocco dei licenziamenti, o anche diciamo di nazionalizzare le grandi aziende del settore energetico e porle sotto il controllo dei lavoratori, o le aziende che licenziano, o appunto la nazionalizzazione delle aziende che le delocalizzano, appunto fanno parte necessariamente di un programma che si pone su un terreno politico e non sono solo una risposta diciamo di tipo economico sindacale, diciamo così. Del resto non esistono, non ci sono purtroppo partiti, gruppi parlamentari, deputati, senatori che sostengono questo tipo di rivendicazioni, che necessariamente si devono porre su un terreno anticapitalista. Per questo sono fermamente convinto che oggi sia necessario organizzare e sostenere un programma rivoluzionario, e che abbia peraltro un profilo internazionale, visto che questi fenomeni non sono appunto fenomeni e dinamiche solo nazionali, ma sono fenomeni appunto internazionali, che quindi devono aprire una discussione rispetto appunto alla necessità di tenere in discussione questo sistema. Dopodiché attenzione, nel senso che se aspettiamo il fatal giorno che noi si possa avere una sponda politica in Parlamento e nelle istituzioni, non lanceremo mai una campagna del genere. E invece noi pensiamo appunto che così come negli anni 70 peraltro una nuova scala mobile e tante altre conquiste avvennero grazie alle lotte di massa, certamente la sinistra aveva ben altre dimensioni rispetto a quelle che non ha oggi, ma comunque diciamo non aveva la maggioranza assoluta in Parlamento. Anche allora quelle conquiste furono ottenute con le lotte, e che peraltro diciamo ci hanno portato via, proprio perché le lotte sono state in qualche modo diciamo sconfitte, e a quelle lotte sono seguite una serie di cedimenti da parte diciamo dei dirigenti della sinistra e delle direzioni sindacali. Noi pensiamo diciamo che oggi sia necessario far partire una mobilitazione dal basso proprio su queste tematiche, e una di queste appunto una nuova scala mobile. Del resto appunto solo dalle lotte di massa possono svilupparsi delle formazioni politiche di massa, di cui ritengo ve ne sia una necessità. Ultima domanda, ti chiediamo di dirci gli appuntamenti che ci aspettano nei prossimi giorni, questa campagna come si svilupperà, se ci sarà un'assemblea nazionale. So che ci sono state alcune assemblee in diverse regioni d'Italia organizzate da delegati sindacali, alcuni presidi davanti alle fabbriche, abbiamo visto anche a Bologna in molte fabbriche, anche in Bonfiglioli abbiamo fatto un volantinaggio, ma ne abbiamo visti anche diverse aziende. Dici un po' le prossime assemblee, ci saranno gli appuntamenti, se i lavoratori vorranno partecipare ti chiediamo di elencarceli. E con questo ti salutiamo, Mario. Ciao, grazie di tutto. Permettimi di ricordare che questo appello è reperibile sul sito giornatedimarzo.it, e in fondo all'appello è possibile anche trovare la modalità con la quale aderire all'appello stesso, appunto. Ma devo dirti, all'inizio della campagna eravamo abbastanza certi che questa parola d'ordine per una nuova scala mobile avrebbe riscontrato interesse tra i lavoratori. Devo dire che siamo colpiti noi stessi per l'entusiasmo ben superiore alle aspettative che sta riscontrando dentro e davanti ai posti di lavoro. Stiamo portando questa campagna in oltre 100 realtà lavorative nel paese, di tutti i settori: metalmeccanico, grande distribuzione, sanità, penso appunto alle mense, e quindi diciamo stiamo avendo anche la possibilità, l'occasione di discutere per esempio con tanti giovani lavoratori che della storia della scala mobile, di come è stata conquistata, dei benefici che portava ai salari appunto relativamente all'aumento dell'inflazione, e purtroppo anche come è stata possibile portarcela via, e i cedimenti sindacali che sono avvenuti successivamente. Questo in qualche modo diciamo sta chiarendo molto le idee e anche sta portando voglia di organizzarsi e di lottare. La settimana scorsa abbiamo svolto un'assemblea in Camera del Lavoro a Modena, c'erano alcune decine di delegati, molti di questi anche collegati via Facebook. Abbiamo svolto un'assemblea davanti alla sede dell'UPS in provincia di Milano. La campagna è ancora in corso, quindi per esempio stiamo pensando di organizzare un'assemblea rivolta ai lavoratori di Amazon di Parma, che probabilmente diciamo faremo nei primi di giugno. La campagna ovviamente non si conclude, perché una campagna sulla scala mobile certamente non può essere a termine, non può essere necessariamente a breve termine, però diciamo quello che stiamo pensando di fare è convogliare questa campagna in un'assemblea nazionale che svolgeremo sabato 25 giugno nella Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna, a cui tutti coloro che hanno aderito e che continueranno ad aderire a questa campagna sono invitati a partecipare. Questo quindi è l'occasione diciamo per fare appello ad aderire a questa campagna, a contattarci per discutere assieme a noi di come sviluppare questa campagna davanti o dentro il proprio luogo di lavoro, nel proprio territorio, perché appunto pensiamo diciamo che vi sia una grande necessità di sviluppare appunto la mobilitazione dal basso, che vada nella direzione di costringere i dirigenti sindacali ad abbandonare la linea dei cedimenti e la moderazione salariale che tanti danni ha fatto. Grazie ancora per avermi ospitato e buon proseguimento. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision? Abbiamo ascoltato un'altra canzone bellissima di Depeche Mode, sempre Revolution, siamo sempre nel campo della rivoluzione. Abbiamo ascoltato Mario Iavazzi, funzionario della CGIL, del direttivo nazionale della CGIL, coordinatore dell'area d'alternativa in CGIL Giornate di Marzo, un'area di cui anch'io faccio parte, alla sinistra di Landini. Abbiamo ascoltato anche, ci ha rassicurato per quanto riguarda il congresso, che questo aspetto della scala mobile cercheremo di metterlo al centro del nuovo congresso della CGIL. Chiaramente serve una sponda politica. Mario ha detto una cosa molto giusta, nel senso che oggi una sponda politica non c'è, e anche se ci dovesse essere, ha raccontato di quello che è successo negli anni 70, c'era un PC molto forte, aveva delle percentuali che oggi noi ci sogneremmo, però comunque sono state le lotte dei lavoratori, non è stata solamente l'appoggio del PC alla scala mobile, che poi insomma c'è stato sì, però fino a un certo punto, nel senso che la scala mobile bisogna conquistarla con le lotte, e deve essere una questione certamente di massa, e chiaramente è un partito che dovesse venire fuori da una battaglia di massa sulla scala mobile, e non solo sulla scala mobile, perché è insufficiente solo la scala mobile, chiaramente le problematiche sono tante, c'è la precarietà, c'è la questione delle pensioni, c'è il problema del salario minimo, ci sono tante altre questioni in ballo, ma laddove i lavoratori dovessero mobilitarsi in massa per queste questioni, chiaramente è lì noi speriamo che possa veramente cambiare qualcosa e anche finalmente avere un'organizzazione politica di massa che possa fare i nostri interessi, e ne abbiamo tanto bisogno, così come anche Mario ha detto, ma ci devono essere lotte, le lotte di massa dei lavoratori che coinvolgono veramente milioni e milioni di lavoratori, perché altrimenti non riusciamo a cambiare i rapporti di forza, così come ci hanno sempre anche spiegato i compagni della GKN che noi salutiamo ad ogni puntata. Ora, detto questo, ci sono vari appuntamenti, anche noi saremo lì il 25 giugno, anche perché a Bologna si svolgerà l'Assemblea Nazionale per una nuova scala mobile organizzata dalla Regione di Marzo in CGIL. Lo ricorderemo nelle prossime puntate, è importante partecipare, perché insomma si parlerà di salari e penso che interessino tutti i lavoratori, ma non solo, anche i disoccupati e studenti, insomma, alla fine riguarda tutti quanti noi. Io faccio un saluto, faccio un appello a tutti i lavoratori in ascolto ad andare sul sito internet www.giornatedimarzo.it, dove poter aderire a questa campagna, mi raccomando. Se vedete dei lavoratori che volantinano questi volantini, prendeteli, parlate con loro e date, insomma, cercate di appoggiare questa campagna. Ne va dei nostri salari, della nostra vita. Un saluto a tutti quanti i compagni e ci sentiamo alla prossima puntata. Si resiste nelle piazze, nelle fabbriche, vite spezzate dai rumori delle macchine, lottano uniti gli operai e le operaie, lotta di classe, mentre il padrone infame gonfia bene le sue tasche. Lo Stato è complice da sempre per fermare questo scempio che va avanti già da tempo, non ha fatto niente, sta dalla parte dei potenti con le mani in pasta. Scendiamo in strada tutti uniti, se a gridare basta, basta un'email per mandare a casa tutti quanti, sottopagati in mezzo ai campi con i visi sfatti. Per le multinazionali siamo in nuovi schiavi, vogliamo zero, siamo numeri immatricolati, siamo i figli della nuova resistenza, costi quel che costi fino all'ultima vertenza, pronti a insorgere, con la rabbia pronta a esplodere, mentre il vento soffia forte. Ci terrorizzano, delocalizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me,